La prospettiva è l'unica cosa che cambia quando cambio prospettiva. E non è vero niente, nemmeno che sono viva, nemmeno che sono morta, nemmeno questa volta. Che oggi era domani ancora non lo sa, e sarà già ieri quando lo saprà. Ma non ti sembra strano che è tutto fuori tempo e noi due siamo fuori mano mentre tutti vanno in centro? Almeno guarda dove prima c'erano i fiori e adesso non ci sono più. Non ti dico di uscire fuori, ma poi decidi tu. Dai uno sguardo a quelle foglie gialle nel cortile, un'occhiata al mondo che sta per finire. Da quando hai iniziato ma non ce la fai, c'era, e non ti sembra strano che è tutto fuori tempo e noi due siamo fuori mano mentre tutti vanno in addosso col vento d'agosto che porta il silenzio di un buco nel tempo che abbiamo perso e resta disteso sul peso dei miei desideri. Non sento nient'altro che il centro dell'universo, dell'universo. E se ti sembra strano che è tutto fuori tempo, tu baciami la mano mentre acciacchiamo.